Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati per una nuova puntata di Zibaldone. Di cosa parleremo quest'oggi? Beh, cominciamo con una gran bella canzone che forse ve lo farà un pochino capire. Beh, un bel pezzo rock di Angela Baraldi per cominciare questa puntata del 14 marzo di Zibaldone. Josephine, Banzo, buon pomeriggio, ben ritornato. Beh, lascio dire e spiegare a te, ai nostri ascoltatori, insomma, di che Josephine si parla e perché è importante per la puntata di quest'oggi. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Va detto che io la pronuncia capivo Justine, prima volta ho ascoltato il brano, ma vabbè, questo è un aneddoto. In effetti dice Josephine, e il personaggio omaggiato in questa canzone di Angela Baraldi del 2017 è Josephine Baker, ballerina, cantante, attrice e fin qui francese, e fin qui diciamo tutto normale, fra virgolette, agente del controspionaggio francese durante la Seconda Guerra Mondiale, spia antinazista, sostenitrice della lotta di Martin Luther King, parlò anche alla marcia di Washington del 63, unica donna, quindi diciamo quasi a 50 anni dalla sua scomparsa, perché venne a mancare il 12 aprile del 75, diciamo è una figura che introduce benissimo il tema della puntata, della quale ti lascio annunciare il titolo, Steven. Sì, però credo che sia importante anche ricordare che Josephine Baker, o Baker pronunciato con un francesismo, è stata la seconda donna che il governo francese, in quel caso il governo Macron nel 2021, ha voluto al Pantheon di Parigi, quindi insomma il suo ruolo nella storia è davvero importante e si lega appunto alla tematica che è donne irriducibili disponibili al conformismo. Noi arriviamo un po' tardi perché l'8 marzo era la settimana scorsa, ma questa puntata è una puntata in cui parleremo appunto di diverse donne irriducibili al conformismo e tra tante... E poi comunque, Steven, non c'è bisogno della data specifica per affrontare questo tema che ha validità tutto l'anno. Assolutamente, assolutamente sono d'accordo con te, anche per questo abbiamo scelto questo 14 marzo per parlare di tutto questo. E ci sarà tanta musica, tante musiciste, tante artiste, tante cantautrici o brani, come in questo caso dedicati a donne appunto irriducibili al conformismo, ma poi parleremo soprattutto di una figura da riscoprire, quella di Annabella Rossi, grande antropologa italiana attiva tra gli anni 50 e 80, lo faremo insieme a Francesco Faete e Francesca Uccella, perché uscirà la prossima settimana, e quindi ne parliamo in anteprima, un libro a lei dedicato, Annabella Rossi, album di famiglia di un'antropologa, che uscirà per i tipi di Squilibri. Però insomma, bando alle ciance, il tempo è tiranno, abbiamo tanta musica che vogliamo mandare in onda, e c'è un'altra grande donna che purtroppo ci ha lasciato da poco, Barbara Dane. Barbara Dane l'avevamo già trovata nella puntata di Dibaldone del 14 gennaio, mi sembra, quella su Trump e Musk. Sì. Sì, è venuta a mancare lo scorso 20 ottobre a 97 anni, avevamo mandato la sua I Hate the Capitalist System, è una figura che, come avevamo presentato già anche a gennaio, è difficile ridurre in poche parole perché... un po' come Josephine Baker, diciamo, è stata molto altro a parte la sua attività professionale, perché è stata anche attivista per, diciamo, qualunque buona causa che ci fosse in quegli anni e nella storia dell'umanità. E il brano che andiamo a sentire si intitola C.C. Rider, con un gioco di parole a Easy Rider, del 1957, però era un brano molto più vecchio, perché era stato originariamente composto e inciso nel 1924 da Maraini, e questo primo disco di Barbara Dane, perché era il suo primo album, era segnato dall'amore e dall'ammirazione per queste figure, di queste cantanti e compositrici black, soprattutto in quanto donne indomite e irriducibili al conformismo. Torna ancora una volta il titolo della puntata. Ce la diamo a sentire, poi parleremo di Annabella Rossi. I feel so blue, I always feel so sad, I made a mistake right from the start. Though it seems so hard to part, open this letter that I will write. I hope you will remember when you receive it. See, writer. And I won't be back until fall. Ora con noi gli ospiti di questa puntata di Zibaldone, Francesco Faeta e Francesca Romana Uccella. Francesco Faeta è professore di antropologia culturale, si occupa da tantissimi anni di fotografia etnografica, immagini e rappresentazioni dei contesti rituali e festivi e di storiografia critica della disciplina. Insomma, i suoi studi sono numerosissimi, andateveli a cercare perché sono davvero infiniti. Staremo qui una mezz'ora a ricordarli tutti e sicuramente qualcosa uscirà anche di questi suoi lavori per parlare di Annabella Rossi. E Francesca Romana Uccella è antropologa, lavora al Museo delle Civiltà di Roma, dove si occupa delle collezioni di etnografia italiana, con ricerche tra l'altro sui carnevali, le rievocazioni storiche, il patrimonio materiale e immateriale della Basilicata. E Francesco Faeta e Francesca Uccella sono con noi per parlarci di questo volume che uscirà nei prossimi giorni. Lo presentiamo in anteprima, intitolato Annabella Rossi, album di famiglia di un'antropologa, che appunto è dedicato a questa figura straordinaria, scomparsa ormai una quarantina d'anni fa, dell'antropologia italiana. Tra gli anni 50 e gli anni 80 i suoi lavori sono stati e continuano ad essere dei punti di riferimento importanti. Innanzitutto, benvenuti Francesco e Francesca, grazie di accompagnarci quest'oggi qui a Zibaldone. Grazie a te. Cominciamo a parlare di questo volume, perché è un volume particolare, è un libro che contiene appunto un saggio di Francesco Faeta, una postfazione di Francesca Romana Uccella, ma è un volume principalmente fotografico. E Francesca, volevo chiedere a te, ma volevo chiedere ad entrambi, come siete arrivati, diciamo, a questa scelta? Sarebbe a dire, Annabella Rossi ha sviluppato in modo significativo la sua attività di antropologa attraverso lo strumento della fotografia, e quindi si può parlare di un tentativo di descriverne in fin dei conti la figura con gli stessi strumenti che le erano propri, che le sono stati propri durante la sua attività etnografica, di ricerca, di studio? Dunque, io direi che sì, senz'altro, tu hai centrato esattamente il problema, tant'è vero che nell'ultima parte della antologica fotografica ci sono le prime fotografie che Annabella scattò da giovane, prima di diventare una professionista, di entrare all'interno, diciamo, del mondo antropologico con una sua specificità legata alle immagini. Il libro è costruito sull'album di famiglia o su una serie di fotografie che idealmente costituiscono l'album di famiglia. Il presupposto critico è quello che la fotografia, che in questo caso, come tu hai acutamente sottolineato, è qualcosa che era proprio alla vita, alle abitudini, alle modalità esistenziali di Annabella, ma che la fotografia sia anche uno strumento di storiografia e quindi contribuisca in modo forte, in questo caso, a delineare la figura di una donna e di una antropologa, di una accademica, di una museografa, a partire dalle sue radici profonde di ordine familiare, di ordine amicale, di ordine professionale, ma anche di gioco, per così dire. Noi la vediamo in tantissime delle fotografie raccolte come una donna divertita che si diverte su se stessa e sugli altri. Quindi abbiamo ritenuto, insieme con Francesca, che fosse un nostro speciale contributo, favorito dalla vicinanza anche familiare di Francesca Romana Uccella con Annabella, quello di arrivare sulle sue fotografie con uno sguardo appunto critico, ma anche con un'idea di leggerezza di legata proprio alla ricostruzione storiografica della nostra disciplina. Questa ricostruzione in genere da noi è molto, come dire, molto pesante, molto paludata e molto accademica. Noi volevamo dare un contributo di conoscenza attraverso un'altra strada, una strada abbastanza desueta. E infatti ricordo che il volume conta con 144 fotografie in bianco e nero, quindi è un volume davvero da gustare, da vedere, da leggere in tutti i sensi con gli occhi. Francesco, è un volume, tu già lo accennavi per quanto riguarda anche appunto Francesca, che unisce l'interesse di entrambi con, diciamo, la professione, le ricerche, lo studio, quindi l'antropologia, la fotografia, l'etnografia che ha segnato la vita di Annabella Rossi, ma anche a un punto, diciamo, di legami personali. Nel tuo caso, Francesco, ci torneremo, no? I ricordi personali di tutti gli anni passati o in cui hai conosciuto, in cui hai collaborato anche con Annabella, e nel caso di Francesca appunto invece un rapporto, Francesca, di parentela, no? E quindi anche per te diciamo la scelta, immagino, di alcune di queste fotografie ha avuto un peso particolare in quello che sono anche diciamo una storia familiare, per così dire. Sì, infatti diciamo che noi siamo partiti da tantissime fotografie, la scelta non è stata semplice, perché queste 140 circa sono state selezionate con un lavoro molto lungo, partendo da una quantità di fotografie molto alta, perché avevamo vari archivi familiari a cui abbiamo attinto, e quindi abbiamo scelto col tempo quelle che erano più significative per il suo percorso personale, e poi naturalmente alcune hanno avuto un peso particolare, perché per me in particolare appunto rivedere anche delle persone che avevamo in comune nella famiglia e poterle scegliere, magari per alcune usare una delicatezza particolare, anche pensando alle persone che sono nelle foto insieme a lei e che in alcuni casi avevano avuto dei rapporti particolari con lei. Quindi abbiamo è stato un lavoro molto lungo, diciamo che è durato molti mesi, perché è stata fatta una selezione, poi una selezione della selezione in base ai contenuti delle foto e a quello che significavano. Cioè, è stato un lavoro molto lungo. Francesco, nel tuo saggio che accompagna appunto queste fotografie, ricordo che il volume è stato pubblicato da Squilibri Editore, si cerca di ricostruire, cerchi di ricostruire quelli che tu definisci, no? Cito, i caratteri salienti della ricerca etnografica di Annabella Rossi. Ecco, ovviamente la sua traiettoria durata professionalmente più di un trentennio, insomma, avrebbe bisogno di molto più spazio, ma in sintesi potresti presentarli anche per dare qualche spunto di riferimento ai nostri ascoltatori e a un eventuale lettore del volume che non ne conosca la figura. Certo, e credo che occorra partire da De Martino. Annabella Rossi è stata una delle allieve di De Martino, un'allieva anche particolare, perché ha avuto con il maestro un rapporto fortemente di grande stima e anche di grande empatia, ma anche di una certa conflittualità, perché i due studiosi avevano degli orizzonti critici relativamente diversi. Ecco, parte la formazione di Annabella con la spedizione in Salento per il tarantismo, a cui lei partecipa con grande emozione personale, con uno sforzo, con un costo anche personale, che poi è documentato nel corso degli anni da tantissimo del suo lavoro, e si evolve però in una maniera relativamente autonoma, perché Annabella approda un'idea dell'antropologia che De Martino non aveva, che già privilegia alcuni tratti del sincretismo culturale tra arcaismo, che era diciamo il tratto studiato prevalentemente da De Martino, e tutte le nuove forme culturali che cominciavano a pervadere il mondo del mezzogiorno italiano e anche delle città, cioè trasportando lo sguardo dalle campagne, che erano già stato oggetto di riflessione preminente di Ernesto De Martino, verso le città. Cioè c'è una idea di evoluzione, diciamo, del lavoro intellettuale e del lavoro scientifico, che naturalmente va di pari passo con l'evoluzione anche della società italiana. Cioè De Martino chiude le sue ricerche sul campo nel 59, Annabella Rossi le apre in qualche misura in quegli anni, e quindi poi attraversa un trentennio di trasformazioni epocali della società italiana, che lei sa però documentare dall'interno con una grande finezza. E occorre dire, ancora al lettore curioso, che naturalmente il suo campo, il suo terreno di indagine è il Mezzogiorno italiano. E in questo lei resta profondamente fedele alle radici demartiniane, e il suo campo di interesse resta soprattutto il tarantismo, che è stato il primo elemento del suo studio. Restano i grandi carnevali campani, restano le forme della ritualità popolare e naturalmente la museografia, perché occorre ricordarsi che Annabella poi, oltre a essere una docente dell'Università di Salerno, è stata una illustre rappresentante del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, che deve molto al suo lavoro, che è stato in gran parte plasmato nella sua forma moderna, dopo la storicità di Lamberto Loria, dalla sua attività, dalla sua impostazione, dalle sue idee. E fermandoci un momento sugli anni 50, Francesco, ecco, la figura di Annabella era un'eccezione in un contesto a grande prevalenza maschile, parliamo dell'antropologia, l'etnografia appunto negli anni 50 del Novecento, e parlando del contesto per di più italiano, o aveva potuto stringere, diciamo così, relazioni fin dall'inizio con altre colleghe, magari anche al di fuori del contesto italiano? Beh sì, hai ragione, cioè il contesto dell'antropologia italiana dell'epoca e anche degli anni immediatamente susseguenti è prevalentemente maschile, però devo dire che intorno la figura di Annabella in questo senso non è un'eccezione, perché intorno a Ernesto De Martino si stringono quantomeno due o tre grandi antropologhe e una collaboratrice che era poi la compagna di Ernesto De Martino, Vittoria De Palma, che determinerà largamente l'imprinting del lavoro sul terreno di quegli anni di Ernesto De Martino. Sarà la donna che costruisce le relazioni su cui De Martino poi lavorerà e che De Martino esplorerà. Le tre antropologhe dell'epoca, che sono state forse le prime antropologhe donne italiane, poi abbiamo nel corso del tempo la formazione, diciamo, dal punto di vista di genere si è per fortuna evoluta, ma le prime tre sono Amalia Signorelli, Annabella Rossi stessa e Clara Gallini. Tre donne molto diverse le une dalle altre, per qualche verso anche conflittuali tra di loro, pur unificate dal grande amore per il maestro, e che cominciano a stabilire una linea diversa, diciamo, di pensiero dell'antropologia italiana, una linea fortemente influenzata dalla loro appartenenza di genere. Del resto De Martino, e chiudo qui per non dilungarmi troppo, ma si era circondato appunto di elementi femminili anche di estremo interesse. Io penso per esempio alla figura, una figura piuttosto trascurata, che è quella di Muzi Epifani, che era stata sua compagna di ricerca nei primi anni del suo terreno, del suo lavoro di terreno del Mezzogiorno, donna di grandissima finezza e raffinatezza proprio nel senso dello sguardo femminile sul mondo. Francesca, Annabella Rossi è stata, insomma, anche i nostri ascoltatori lo stanno capendo senza ombra di dubbio, una figura del tutto eccezionale, no? È stata anche segnata da quello che nel libro definite uno spiazzante anticonformismo, e poi magari ci torneremo anche magari con qualche ricordo dei salotti che insomma l'hanno vista in fin dei conti protagonista, e univa una forte spinta creativa, no? Caratterizzata, ecco, insomma, se pensiamo già a De Martino e anche ai suoi interessi sulla ricerca, no? Menzionati poc'anzi, dall'inclinazione per la musica, per l'arte, fin da quando era giovanissima. Ecco, potresti parlarci o darci qualche tips, come si dice in inglese, del suo rapporto appunto con la produzione artistica e musicale del suo tempo? Sì, diciamo, lei era sin da giovane, ha sperimentato varie forme d'arte, perché appunto poi leggendo scoprirete che viveva in un ambiente molto, molto stimolante da questo punto di vista, perché il padre conosceva molti, molti artisti dell'epoca degli anni 50-60, e quindi lei aveva iniziato a fare lezioni di disegno, di scultura, soprattutto di disegno, con alcuni artisti dell'epoca, e quindi aveva anche esposto, fatto mostre collettive, e si era sperimentata anche con diciamo la produzione di gioielli, di spille. E poi amava moltissimo la musica jazz, e quindi aveva anche, diciamo, seguiva molto il panorama musicale contemporaneo legato al jazz a Roma, e conosciuto anche musicisti come Louis Armstrong, appunto di passaggio per concerti, e oltre appunto alla musica e alla pittura c'era la produzione dei gioielli, e anche la passione per la fotografia, che non è una passione che comincia poi dopo, diciamo, nasce con lei e arriva fino poi all'uso che lei della fotografia farà in campo antropologico. Però in casa avevano un'attitudine alla fotografia dalla generazione precedente alla sua. E anche il padre appunto l'ha diciamo iniziata all'uso della fotografia. Quindi, sì, sì, una vita artistica tutto tondo, ecco, anche negli interessi, voglio dire, e che rappresenta bene, poi spiega bene anche quali sono state anche le sue linee di ricerca, cioè le fa capire meglio, ecco, per così dire. Sì. Francesco, la tua relazione con Annabella è di lungo corso, per così dire, e nel testo si parla anche, no, di questa casa romana di Trastevere, al 71 della Via della Lungaretta, in cui appunto Rossi ha vissuto con il documentarista Michele Gandin, suo compagno di vita. Ecco, in quella casa, nel testo scrivi che, e cito, si davano convegno fuori da qualsiasi aura di mondanità, studiosi di scienze sociali, intellettuali, fotografi e cineasti, politici, studenti, rappresentanti di movimenti di liberazione italiani e stranieri. Ecco, insomma, ho molta curiosità per saperne qualcosa di più, magari qualche aneddoto. Ci puoi raccontare qualcosa al riguardo? In cosa consisteva, diciamo, questo salotto antimondano? Ma sai, quando io ho iniziato, parto diciamo dal mio punto di vista personale, quando ho iniziato il mio lavoro di studioso di scienze sociali, c'erano due strade possibili. Una era quella fortemente paludata, gerarchizzata, ingessata in qualche misura dell'accademia, del percorso accademico, che poi ho torto collo, ovviamente ho dovuto seguire come male necessario, diciamo, per poter esprimere le proprie idee sul mondo e sulla società. E poi c'era la possibilità di entrare a casa di Annabella. A casa di Annabella era una sorta di seconda università, se vogliamo, però spogliata da tutto il cotea accademico mortificante, gerarchizzante, appunto, che conosciamo. A casa di Annabella eravamo tutti uguali. L'ultimo studentello come me che arrivava appena uscito dall'università, io l'ho conosciuta, che mi ero appena laureato in sociologia con Franco Ferrarotti, e il grande maestro della fotografia, o Luciano D'Alessandro, il Michele stesso, Michele Gandini, il suo compagno, che era allora all'apice della sua diciamo carriera professionale, aveva una considerazione altissima, aveva appena vinto la Vela d'Oro a Locarno per un suo documentario. E viaggiavamo tutti sullo stesso, diciamo, intorno allo stesso percorso, che era quello di sperimentare la scienza sociale e anche i suoi strumenti di documentazione, cinema, videotape, fotografia, nel senso della liberazione, cioè della liberazione dei soggetti interessati, i soggetti che studiavamo, che erano i soggetti interessati a un mondo migliore, a conseguire un mondo migliore. Quindi questa forte aspirazione politica, mista appunto a questa straordinaria capacità di obliare tutte le convenzioni. A casa si arrivava e chiunque arrivava appendeva in qualche misura il suo cappello e trovava sicuramente qualcosa da fare, qualcosa da dire, qualcuno con cui colloquiare in serate che erano sempre di una ricchezza fortissima. Io credo di aver imparato probabilmente più appunto da quelle stanze di Via della Lungaretta che tu ricordavi, piuttosto che dalla mia formazione professionale. Ti dico un solo episodio che tu mi chiedevi, sperando di non dilungarmi troppo, ma era pieno anche di persone che facevano riferimento all'internazionalismo dell'epoca e soprattutto le lotte di liberazione. Io ospitai nel mio studiolo, presentatomi da Annabella Rossi, Agostinho Neto, che era allora il capo del Movimento Popolare della Liberazione d'Angola, e che era di passaggio a Roma per questioni di politica e ovviamente di richiesta di supporto per il suo movimento, e che viaggiava ogni giorno in una casa diversa, perché la presenza della PIDE, della Polizia Politica Segreta portoghese, era allora qui a Roma molto massiccia, e Annabella in qualche misura insieme con Joyce Lusso, di cui lei era amica e con cui avevano rapporti, me lo affidò per qualche sera, non più di qualche sera, perché poi subito dopo Agostino Neto dovette cambiare casa e non ricordo chi fu il fortunato mortale che lo ereditò. che meravigliosi ricordi. Volevo chiudere un po' telegraficamente, diciamo così, con entrambi con un'ultima domanda che ha a che fare, visto che rappresentate due generazioni diverse degli studi antropologici in Italia, qual è a 40 anni e poco più ormai, perché è scomparsa nell'84 Annabella Rossi prematuramente, a 40 anni dalla sua scomparsa, qual è l'eredità che rimane dal punto di vista degli studi antropologici in Italia di Annabella? Non so se vuoi cominciare tu, Francesco, e poi chiudiamo con Francesca, anche per temi, diciamo, generazionali. Sì, certo. E guarda, la domanda va divisa in due. Dal punto di vista strettamente storiografico, direi che non rimane moltissimo, perché noi siamo un paese senza grande memoria, e all'interno di questo paese smemorato noi siamo una corporazione disciplinare che non ama molto il ricordo e la memoria. Quindi rispetto all'importanza del ruolo da lei svolto nella storia dell'antropologia italiana, ci dovrebbe essere di più, dovrebbe esserci più attenzione, ci sarebbero dovuti essere maggiori studi e maggiore riflessione. Sul piano viceversa sostanziale, io ritengo che l'insegnamento di Annabella sia oggi per i giovani quanto di più stimolante, di più divertente, proprio come del resto come per me è stato, nel senso che riuscire a entrare all'interno di un mondo scientifico con leggerezza, con divertimento, nella prospettiva di piegare gli strumenti che uno si va a formare al lavoro per il benessere degli altri, cercando di trovare ogni volta un punto di vista originale nelle cose, credo che sia quanto di più importante un insegnante possa oggi dare, e lei continua a darci. Sì. Francesca? Sì. Allora, per me è anche interessante fare una piccola riflessione sul patrimonio degli oggetti legati a Annabella Rossi, perché appunto lavorando poi nel museo, che è nato anche soprattutto dalle radici del Museo di Tradizioni Popolari, so che tanto del lavoro di raccolta anche di oggetti, che come diceva Francesco è un aspetto anche importante del suo lavoro, perché appunto oltre alle ricerche nel sud Italia ci sono anche tutte queste ricerche erano legate anche a una raccolta di oggetti che lei faceva meticolosamente quando soprattutto andava a fare ricerca presso i santuari, presso appunto qualsiasi tipo di ricerca facesse, lei riportava una buona quantità di oggetti che oggi sono conservati al museo e che adesso sono diciamo speriamo in un inizio di una nuova fase di riflessione anche su questo aspetto della sua professione. Che è molto interessante appunto e che ci riporta anche degli oggetti che all'epoca quando erano raccolti, non so, penso ai souvenir, agli ex voto, non erano oggetti a cui si attribuiva tanta importanza che invece adesso storicamente stanno assumendo, hanno un altro aspetto diciamo e raccontano delle cose che altrimenti verrebbero dimenticate. Eh sì, eh sì. Annabella Rossi, album di famiglia di un'antropologa, uscirà la prossima settimana per Squilibri Editore con appunto due saggi di Francesco Faite e Francesca Uccella che ci hanno accompagnato quest'oggi a Zibaldone e che saluto calorosamente, a cui mando un abbraccio e ringrazio ancora di essere stati con noi. Grazie a te. Grazie a te di averci invitato. Grazie. Grazie dell'invito. E vabbè, Banzo, a proposito di donne irriducibili, insomma, Marianne Faithfull direi che insomma è nella, diciamo, nei primi 10 posizioni forse dell'ultimo secolo, che ne dici? Ma non vogliamo fare classifiche perché sono una cosa gerarchica in questo caso. Le classifiche le lasciamo al campionato di calcio, sì, comunque un omaggio dovuto a Marianne Faithfull che è scomparsa lo scorso 30 gennaio, poco dopo aver compiuto i 78 anni, e è una figura che alla fine credo che nell'immaginario si possa dire che è più nota per aspetti non strettamente legati alla sua musica, come per esempio il fatto di essere stata negli anni 60 musa di Mick Jagger, e di aver avuto questa vita romanzesca o rock and roll con tutti gli eccessi del caso. Il brano che abbiamo ascoltato del 1979, Witch's Song, e fa parte del disco Broken English, che è un po' l'album della rinascita dopo un periodo appunto caratterizzato da questi eccessi, diciamo, romanzeschi, che restituisce al pubblico una Marianne Faithfull praticamente cantautrice, perché il brano lo firma lei, con una voce più rock e profonda, un suono new wave, e questa canzone è dedicata a tutte le streghe che ha conosciuto in vita sua, in senso figurato, ma non si sa fino a che punto, in primo luogo la madre. Sì, questo è vero. Un ode per le donne pagane selvagge che conosco e che ho sempre avuto intorno a me, no? Ha definito questa canzone. E rimaniamo su Faithfull, Banzo, per un secondo brano e ci avviciniamo al presente. Una decina d'anni fa, 2014, Mother Wolf dall'album Give Me Love to London, 35 anni dopo la canzone che abbiamo appena sentita. Insomma, una Faithfull che in tutti questi anni, fino praticamente alla scomparsa, è stata molto attiva, ma anche non solo nella musica, anche nel cinema. Nel 2007 il Club Tenco l'ha premiata come operatrice culturale con il premio Tenco, e in questo suo nuovo album di 10 anni fa, insieme a collaborazioni come insomma grandi artisti da Nick Cave a Brian Eno, a Roger Waters, a Anna Calvi, c'è anche questo brano, Banzo, scritto insieme a Patrice Leonard, che è una ballata contro le guerre. Sì, a Patrick Leonard, è praticamente caratterizzata da una struttura minimalista, c'è una singola strofa e un ritornello, vabbè, qui sto facendo spoiler se vogliamo, che sono ripetuti più volte con un'enfasi crescente. Adesso potete ascoltare il brano e verificare se quello che ho detto corrisponde al vero. E ce l'ascoltiamo, Mother Wolf. That cup in your mouth isn't one of yours, he is not. And I'll fight to the death who say different. The filth that comes out of your mouth I will not listen to. You treat your dogs better than you treat each other. The words that come out of your mouth disgust me. The thoughts in your heart sicken me. Listen to treat your dogs better than you treat each other. The words that come out of your mouth disgust me. The thoughts in your heart sicken me. We are free people. We do not kill for pleasure. We are like a star at night. We gaze at the world through a thousand eyes. You people kill only for pleasure. You have no need, and yet you cannot seem to stop. You murder each other for enjoyment only, and with absurd, abstract excuses. My God, how you disgust me. E beh, un brano con questo testo, con questo messaggio di questi tempi è ancora più necessario. Banzo, ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Zibaldone e qui troviamo la prima voce maschile di questa puntata e anche l'unica, però per un brano molto particolare e scritto per una grande cantautrice italiana. Sì, scritto o reinterpretato, perché questo va considerato, questo aspetto, è un brano di Piero Ciampi. È la celebre Confiteor in una versione numero zero, perché è un provino, diciamo, per Nada del 1973, che è stato pubblicato solo nel 2024, proprio da Squilibri Editore, sì. In una antologia di 32 brani, Siamo in cattive acque, che doveva essere il titolo dell'ultimo disco mai uscito di Piero Ciampi, curata da Enrico De Angelis. Ci sono 11 inediti e vari provini, fra i quali appunto questo. Beh, Confiteor, se conoscete Piero Ciampi, è una canzone del 1960, quindi non era inedita in quel momento, ma c'era Nada che stava cercando di uscire, diciamo, dalla gabbia dorata del pop per abbracciare quella che sarà poi la sua dimensione più cantautorale, comunque più personale, che la caratterizza tuttora. E insomma Ciampi riprende, fra gli altri brani, poi il disco Ho scoperto che esisto anch'io, riprende questa Confiteor e fa una cosa che io normalmente odio moltissimo, cioè le cambia il genere grammaticale. Di solito succede nelle canzoni d'amore, no? Sì, tipo grande, sì. Grande, grande, per esempio, esiste in entrambi i generi. Però ecco, non si limita a questo, che è un'operazione pigra e detestabile, ma cambia tutto il testo della canzone per dargli, diciamo, appunto un'angolazione, un punto di vista femminile, e così appunto diventa lodevole, ecco. E ricordiamo che è una canzone appunto che doveva essere cantata da una giovanissima Nada, quindi c'è anche forse un tentativo di immedesimarsi con un'altra personalità e un'altra età completamente diversa da quella di Ciampi all'epoca. Eh sì, andiamocela a sentire allora questo provino di Piero Ciampi, inedito fino a pochi mesi fa, prima che entrasse appunto in questa nuova raccolta pubblicata recentemente da Squilibri. Mia madre, quando parla di me, dice che sono una buona figlia, i miei fratelli, quando parlano di me, dicono che sono una buona sorella. Le mie amiche, quando mi ricordano, dicono che sono una buona amica. Ma essi non sanno che ho tante tentazioni e che vivo tra mille illusioni. Ma essi non sanno che sogno grandi uccelli in lunghi laghi bianchi. Ma essi non sanno che non entro in una chiesa perché non credo in niente, ma essi non lo sanno che la mia vanità va oltre l'indifferenza, ma essi non lo sanno che chiudo la mia invidia tra moltissimi tramonti. Ma essi non sanno che giuro spesso il falso pur di avere ragione. Ma essi non sanno che provo eccitazione quando mi sento sola. Ma essi non sanno che dico addio a un uomo solo se ce n'è un altro. Ma essi non lo sanno che spesso mi metto le mani nei capelli. Ma essi non lo sanno che provo strano il buio. Ma essi non lo sanno che chiudo le finestre. Ma essi non lo sanno che quando è pomeriggio io temo un'altra sera. Simbolo di libertà e opportunità per intere generazioni di irresponsabili, la figlia di Vanna Marchi, Stefania Nobile, arrestata a Milano per spaccio e sfruttamento della prostituzione, ma lei precisa, possiamo fare di più. Tempi turbolenti. Nella guerra mondiale dei dazi lanciata da Trump, i consumatori americani, già impoveriti dall'inflazione, stanno per subire l'effetto di Salvini, che parla 24 ore su 24 di Putin sulle note di Wish You Were Here dei Pink Floyd. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc tra migliaia di tifosi in delirio nel centro di Damasco. L'entusiasmo dei piloti, fantastico essere qui, siamo polvere e terra, tocchiamo la nostra fragilità. Poi precisano, vogliamo tornare subito in Italia per poter vivere di più. Ok, sono tempi turbolenti, ma l'Europa ora corre, come sempre, senza controfigure. Von der Leyen rilancia il suo piano per il riarmo, ora lo porto in braccio per le scale. Sì di Calenda, ma sembra escluso il movente politico. Musk scatenato, prima restituisce la vista a due ragazze ciechi di Kiev, poi precisa, non lo farò mai. Festa della donna. Il governo impegnato a garantire le opportunità fino a domattina. Meloni, le donne non siano costrette a scegliere tra famiglia e lavoro. Più di 50 volte ogni ora. Eh beh, avete sentito che sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, telegrafico perché siamo in conclusione. Non so se vuoi fare un commento su queste ultimissime. Beh, ci sono anche delle figure femminili che però non consideriamo buoni esempi, come Stefania Nobile, insomma. E anche, anche Salvini. Però non è una figura femminile, ma questa è una cosa più vera del vero, parla 24 ore su 24 di Putin sulle note di Wish You Were Here, perché è effettivamente un aspirante a scendiletto. Ma Steven, qui il tempo stringe, lo hai detto anche tu. Eh sì, andiamo con l'ultimo trago, la canzone con cui sempre chiudiamo le nostre puntate e che ha a che fare con canzoni di artisti italiani cantate in altre lingue. Ecco, qui però in realtà ritroviamo di nuovo per chiudere Marianne Faithfull in qualche modo, no Banzo? Sì, effettivamente così, perché una canzone in italiano? Perché nel corso della sua carriera, comunque negli anni 60, aveva firmato due incisioni in italiano e aveva partecipato nel 1967 a Sanremo, cioè 67 è l'edizione della tragica fine di Luigi Tenco, ovviamente, abbinata, perché era il periodo degli abbinamenti, con l'ex voce dei Camaleonti Ricky Maiocchi, c'è solo Tonino se chiedi a me, e il brano era C'è chi spera, firmato da Pace, Colonnello e Panzeri. Diciamo che c'è un po' di shock culturale Marianne Faithfull in questo contesto, ma va bene, però stiamo parlando di una cover ovviamente. E oggi ci spostiamo in Grecia addirittura, visto che quest'anno abbiamo aperto tutte le lingue, con Zoitsa Kourkouli, forse l'ho pronunciato Kourkouli, l'ho pronunciato male, popolare interprete pop, attiva per gli anni 50, negli anni 50 e 60. Il testo greco ha una caratteristica piuttosto curiosa, cioè rispetta il brano è C'è chi spera, il titolo greco è Speranza, però il C'è chi spera viene reso in greco con Calispera per l'assonanza, e Calispera vuol dire buonasera. Buonasera, il titolo greco è Elpides. Va bene, mi sembra un ottimo finale. Banzo, grazie come sempre di averci accompagnato, e come era solito dire alle 17.56 ogni venerdì il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván. Vi abbiamo presentato tutte donne delle quali stimiamo, perché abbiamo fatto delle puntate sulla Meloni, però non la stimiamo, ecco, quindi oggi non avremmo potuto parlare. Banzo, buon venerdì sera a tutti, godetevi questa versione in greco, Elpides di Zoitsa Kourkouli, bye bye, buon venerdì sera. Σπέρα, καλησπέρα. Καθένας μόνος γλυκά σωπαίνει, ελπίδα ζητά η καρδιά θλιμμένη, και μόνο μια λέξη φτάνει από σένα. Καλησπέρα. Παιδιά χαμογελάνε, μια καινούρια ελπίδα θέλει ο κόσμος, και τα νιάτα τραγουδάνε, την αγάπη του ζητάνε, μες τη νύχτα να μην κλαις ποτέ. Δεν ξέρεις τι θα'ναι η άλλη μέρα, χαρά ίσως φέρει και μια αγάπη, σαν ήλιος μες στην καρδιά σου να τη φωτίζει. Νύχτα μέρα. Οι καμπάνες που χτυπάνε, τα παιδιά χαμογελάνε, μια καινούρια ελπίδα θέλει ο κόσμος, και τα νιάτα τραγουδάνε, την αγάπη του ζητάνε, μες στη νύχτα να μην κλαις ποτέ. Δεν ξέρεις τι θα είναι η άλλη μέρα, χαρά ίσως φέρει και μια αγάπη, σε μήλιος μες στην καρδιά σου να τη φωτίζει νύχτα μέρα.